malattia. Meno male, ma ci consoliamo così questa sera. Allora, noi avremo tra poco nostro ospite radiofonico, Patrick Tudoré, il quale... Chi? Patrick Tudoré. Chi? Dai, se lo dici un'altra volta mi scoppia l'auricolare e... Il mio amico Patrick Tudoré. Il tuo amico? Non ci posso credere, il mio amico Patrick Tudoré. Ecco, ragazzi, io non sapevo. L'Écrivain Sacrifié, l'ultimo libro di Patrick Tudoré. Tra qualche minuto. Bellissimo. E parleremo con sarà una grande sorpresa. Grande sorpresa? Sì, sì, sarà una grande sorpresa. Lui ha scritto quest'ultimo, diciamo, quest'ultima sua fatica, L'Écrivain Sacrifié, Vie et mort de l'émission littéraire. Quindi noi in realtà ci occupiamo di radio, però poi capire cosa accade nel mondo delle arti legate comunque alla comunicazione è abbastanza interessante. Patrick praticamente è professore in scienze politiche all'Università La Sorbona ed è ricercatore in scienze dell'informazione e della comunicazione. È ugualmente autore di notevoli romanzi e autore drammatico. Tra l'altro ha scritto tantissimo, quindi magari lui stesso ci racconterà. E siamo veramente curiosi di sapere cosa sta accadendo oggi giorno nel mondo dei media e sapere un po' cosa ci dobbiamo aspettare, cosa bolle un po' in pentola, cos'è che non sappiamo in questo straordinario mondo sempre in movimento, qual è quello per l'appunto dei media. Allora, non solo, è anche un grande insegnante, un grande professore di comunicazione. Quanto pare sì. Vi comunichiamo con piacere, tra l'altro, che finalmente abbiamo anche creato un gruppo in Facebook. Brustelliamo o non brustelliamo? Brustellando. E ovviamente gli autori sono i quattro qui presenti. Quindi ricordo Daniele Regia, Georges Laurent, Fior D'Aliso e la sottoscritta Maridì, dove riuscirete a trovare, spero nel giro di poco tempo, sicuramente le ultime emissioni e poi cercheremo di aggiornarvi anche su quella che è la storia di Brustellando. Sarebbe curioso magari di trovare una delle prime emissioni e capire un po' i progressi di questo anno e mezzo di trasmissione. Volevo inoltre ringraziare tutti coloro i quali continuano a scriverci. Cercheremo di dar seguito a tutte quante le vostre richieste. L'agenda ovviamente di Bruxelles è abbastanza ricca anche questa settimana, c'è tantissimo da raccontare, come dicevamo la primavera è alle porte, quindi speriamo anche il sole, tantissimi sono gli eventi che si stanno preparando a Bruxelles, tra cui il Festival della Musica Contemporanea Flagey, che si apre proprio si è aperto poc'anzi alle 20:15 e durerà circa un mese, quindi dal 10 marzo al 10 aprile. Il 10 marzo è la giornata consacrata agli 80 anni di Henri Pousseur, che a quanto pare è stato pioniere di musica elettroacustica. Magari voi, sia Stefano che Paolo, che saluto, perché vedo essere già qui presenti con voi, potranno magari invitarci qualcosa di più. Dalla regia sento finalmente Patrick. Patrick? Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Marie-Vie à l'appareil. Finalement, on a l'occasion, la chance de parler avec toi. Je vous entends assez mal, je dois l'avouer. Oui, mais parce qu'il y a un problème sur lui, Patrick. Il y a un problème avec le micro des merdis, je crois. Il n'est pas allumé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, de toute façon, même ça ne marche pas. J'espère que tu m'écoutes bien. Là, j'entends bien votre voix, mais celle de Marilena, beaucoup moins. Ah, elle va arriver, elle a changé son micro, et donc je crois qu'elle va arriver tout de suite. Patrick. Oui. Oh, maintenant, tu peux entendre ma voix? Voilà, là j'entends beaucoup mieux. Merci. Ok. Moi, je vais donner simplement des informations sur toi, mais j'aimerais bien que tu puisses nous dire quelque chose en plus sur toi, parce que je vois de ton CV des choses merveilleuses, donc je te laisse la parole. Bon, mais si je dois me présenter en quelques mots, donc je dirais que j'ai des activités assez multiples. Je suis romancier, j'ai publié une douzaine de livres en tout. Donc en France, puisque je suis français, j'habite Paris. J'ai publié une douzaine de livres, dont 5 romans publiés aux éditions de la Table Ronde, qui est une maison bien connue, je fais partie du groupe Gallimard. Je suis aussi auteur dramatique, j'ai écrit une pièce qui a été jouée il y a 2 ans à Paris, dans un théâtre bien connu, et donc et le dernier livre que j'ai fait paraître, par contre, lui appartient plus à la partie la plus académique de mes activités, c'est-à-dire activité de chercheur, hein, autour d'un thème qui est les rapports ambigus souvent de l'écrivain avec la télévision. Et en fait, j'ai écrit il y a quelques années une thèse de doctorat pour la Sorbonne, voilà, autour de ce sujet, les émissions littéraires et l'évolution du statut de l'écrivain. Et j'ai, à partir de ces éléments, écrit un essai qui a été publié en tout début d'année, la fin janvier, et voilà, et dont nous parlons aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce que, veux-tu, s'il te plaît, nous introduire le thème de l'écrivain sacrifié? Et est-il vrai que l'écrivain aujourd'hui, il est mort, qu'il n'est plus vivant? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, c'est un, évidemment, le titre est un peu provocateur, hein, bien entendu, c'est une métaphore, nous entendons bien. Mais il est vrai que ce que j'ai pu observer, en fait, l'histoire du livre est partie d'un constat que je faisais, qui est que dans les années 60, la critique universitaire, la critique encore très inspirée par le structuralisme, hein, je pense à Michel Foucault, à Roland Barthes, des gens importants comme cela, eh bien, cette critique universitaire a sacrifié l'auteur, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne l'a pas emmené, on ne lui a pas mis la tête sur un billot pour la trancher, bien entendu, mais donc la critique a décidé que l'auteur était de moins en moins important dans le processus créatif, et que ce qui apportait dorénavant, c'était beaucoup plus le récepteur, c'est-à-dire le lecteur, qui lui donnait sa vraie forme à la création, à l'œuvre. Et donc, dans le même temps où, que la critique universitaire donc sacrifiait l'auteur, puisque c'est un petit peu le cas, eh bien, la télévision naissante, dans les années 50, 60, eh bien, lui a permis de ressusciter en quelque sorte, puisqu'elle a commencé à inviter les écrivains pour parler de leurs livres, et ça a été la naissance des premières émissions littéraires. Donc, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'écrivain sacrifié », et qu'on a promu beaucoup plus l'image de l'écrivain à la télévision que son texte, et le texte a fini, l'œuvre réelle a fini par disparaître totalement des préoccupations de la télévision. On ne s'intéresse plus qu'à l'image de l'écrivain, à un discours très superficiel, et c'est en ce sens, hein, il n'y a pas une meilleure manière de sacrifier l'écrivain que de sacrifier son texte. Donc, qui est aujourd'hui l'auteur? Pardon? Qui est aujourd'hui l'auteur? Qu'est-ce qu'on peut dire, vivement? Alors, en fait, ce qui serait bien, c'est de faire une petite différence entre que je fais dans le livre, d'ailleurs, entre auteur et écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain est celui qui écrit un texte littéraire, qui se donne un certain nombre d'ambitions littéraires, avec donc des textes qui sont souvent, pas toujours, mais en tout cas, complexes, ambitieux, qui donnent vraiment une forme au monde, hein. Roland Barthes disait que écrire, c'est ébranler le monde, hein, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Et l'auteur, au contraire, c'est quelque chose de très indéfini. C'est, en fait, la télévision contemporaine a substitué l'auteur à l'écrivain. Elle a transformé les écrivains en auteurs, c'est-à-dire en gens multicartes, multimédia, qui sont des gens qui ne jouent plus dans la littérature, mais qui écrivent des livres bien souvent pour accéder à une certaine notoriété, ou en tout cas qui sont très loin de la grande ambition littéraire. Donc moi je lis avec intérêt ton livre, et j'avais plusieurs questions par rapport à ce que tu disais sur la paléotélévision. Qu'est-ce que c'est, pour finir, la paléotélévision? Paléotélévision, d'abord, c'est un terme que la paléotélévision, la néotélévision, hein, je divise l'histoire de l'émission littéraire et des rapports d'écrivains avec la télévision en trois époques, hein, la paléotélévision, la néotélévision et la surtélévision. Et en fait, paléotélévision et néotélévision sont des concepts qui ont été inventés par Umberto Eco, donc un grand penseur italien, un sémiologue, et qui a beaucoup travaillé sur la télévision, et on a fait un champ d'investigation, d'un champ de recherche, tout simplement. Et c'est en 83, je crois, dans l'Espresso, dans des articles importants qu'il a écrit pour l'Espresso, où il a utilisé pour la première fois le terme paléo-télévision, qui est entré maintenant dans le champ de recherche donc des sociologues des médias. Alors, la paléo-télévision, c'est quoi? C'est la première forme de la télévision, c'est la télévision qui naît dans l'après-guerre, essentiellement à partir des années 50-60, et qui se termine en gros entre à partir de 1975-1980. et elle se distingue par un certain nombre de clés. La paléo-télévision, d'abord, elle est faite par des intellectuels. C'est une télévision qui se donne pour ambition de faire un lien entre le monde intellectuel, le monde littéraire notamment, et le grand public. Alors il faut bien voir qu'à l'époque, il y avait très peu de chaînes, il y avait très peu de concurrence, bien entendu, et que donc cette paléo-télévision pouvait se permettre de faire pas mal d'émissions. Alors là, je prends le cas de la France, bien entendu, mais ça a été vrai dans les autres pays, comme l'Italie ou la Belgique. En tout cas, la paléo-télévision se permettait, par exemple, en France, de monter en direct un soir à 20h30, donc en direct avec des comédiens, la pièce Les Perses d'Eschyle, hein, une pièce de tragédie grecque. Donc, on imagine ça aujourd'hui, ce serait absolument impensable. Donc la paléo-télévision, elle se donnait pour ambition de faire ce pont, comme je l'ai dit, et c'est une télévision qui avait une passion humaniste, pédagogique. Elle souhaitait transmettre, faire passer du culturel chez les gens qui ne seraient pas forcément attirés par du culturel. Et c'est comme ça qu'il y a eu des émissions, et une émission fondatrice pour l'émission littéraire qui s'est appelée Lecture pour tous en France, et qui a été créée par des gens qui s'appelaient Pierre Desgros et Pierre Dumayet. Et leur ambition, c'était très clairement, comme le disait d'ailleurs Pierre Desgros, c'était de s'adresser à tous sur des sujets parfois difficiles, hein, des auteurs comme Flaubert par exemple, ou Maupassant, etc. Mais de s'adresser, comme le disait Pierre Desgros, il avait une expression, il disait à la mercière de Saint-Léon, ce qui n'était pas du tout péjoratif, mais ça voulait dire qu'il voulait s'adresser à tous, y compris à des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de lire. Et pour ajouter encore quelques petites choses, donc Umberto Eco le dit très bien, la paléo-télévision, c'était aussi une télévision qui reposait beaucoup sur certains principes, qui étaient la télévision en direct, par exemple, où là, on ne pouvait pas beaucoup tricher, hein, parce qu'avec le montage, évidemment, on peut tricher. C'était une télévision plus artisanale qu'industrielle, bien entendu, et elle répondait à un certain nombre de codes aussi, une codification très précise, qui aujourd'hui n'existe plus, notamment dans la télé-réalité. La paléo-télévision, par exemple, c'était des codes sémantiques qui tout simplement précisaient qu'il y avait deux manières de regarder la caméra, ou plutôt d'être devant la caméra. Une manière qui consistait à regarder la caméra droit devant, et ça, donc, c'était tout simplement une personne qui incarnait qu'elle-même, c'est-à-dire quelqu'un qui présente le journal de 20h, par exemple, et qui donne de l'information, en tout cas qui est ancré dans le réel. Et l'autre codification, c'était tout simplement les gens qui, eux, ne regardaient pas la caméra, ce qui voulait tout simplement dire qu'on était dans la fiction. La fiction qui était donc des feuilletons, des pièces de théâtre ou du film. Aujourd'hui, si on regarde bien dans ce délire de la télé-réalité, eh bien, ces codes ont complètement explosé. On ne sait plus si on est dans la réalité, si on est dans la fiction, si les protagonistes incarnent des personnages ou n'incarnent qu'eux-mêmes, et ça crée de très grandes confusions. C'est d'ailleurs ce qui est souvent reproché à la télé-réalité. Oui, Patrick, c'est oui. Très intéressant que tu as nommé Umberto Eco, qu'il parlait, et je crois qu'il a écrit la différence entre paléo-télévision et télévision dans la bustina di Minerva. C'était oui. Justement son espace dans l'espresso. Mais selon toi, vu qu'on a parlé de paléo-télévision et néo-télévision, mais tu as aussi nommé, mentionné en certain moment la sur-télévision. Oui. Et donc je te demande avant tout d'expliquer un peu c'est quoi la sur-télévision pour toi, selon... Bien sûr. Donc, alors, écoute, en fait, et le rythme aussi, et le rythme de l'émission littéraire par rapport à celui de la sur-télévision. Oui, s'il y a, en fait, pour simplifier et être un peu pédagogue, donc il y a eu la paléo-télévision, je viens de l'expliquer, qui finit à peu près dans les années 75-80, et c'est là où les chaînes se multiplient. Il y a de plus en plus de chaînes qui interviennent, on n'est plus avec la chaîne unique. Donc la concurrence entre en ligne de compte, donc la publicité devient de plus en plus importante. Il y a des chaînes qui sont privatisées, et donc l'offre télévisuelle devient pléthorique. Hein. Les ménages sont équipés de plus en plus de postes de télévision. Et donc cette néo-télévision qui va commencer à avoir un nouveau regard sur le monde et à dériver vers le divertissement déjà, va durer jusqu'à la fin des années 90. Et là va commencer un nouveau règne que j'appelle moi sur-télévision. Je rends à César ce qui est à César et Umberto Eco ce qui est à Umberto Eco, c'est-à-dire la paléo-télévision et la néo-télévision, mais j'invente, moi, un terme qui est la sur-télévision, et qui, elle, est une forme de télévision totalement dilatée, atomisée, qui est celle qui a commencé, en gros, avec les années 2000 et avec le 21e siècle. Et cette sur-télévision, donc, c'est une nouvelle forme de télévision qui, comme je vous l'ai dit, s'affranchit de tous les codes. Et sur le plan du rapport avec l'écrivain, la paléo-télévision, par exemple, allait voir l'écrivain chez lui, allait le rencontrer, célébrer le grand écrivain avec beaucoup de vénération. La néo-télévision fait venir l'écrivain sur son plateau, désacralise en quelque sorte l'écrivain et la littérature, petit à petit, avec une émission très célèbre en France et dans le monde, qui s'appelait Apostrophe, de Bernard Pivot. Et ensuite, aujourd'hui, eh bien, donc la néo-télévision légitime en quelque sorte l'écrivain, ça n'est plus l'écrivain lui-même qui légitime la télévision, c'est la télévision elle-même qui légitime l'écrivain. Et avec la sur-télévision, eh bien là, c'est un autre stade que l'on franchit. La sur-télévision elle-même va créer, va formater ses propres auteurs, puisque les écrivains sont de plus en plus rares à la télévision, en tout cas les vrais, et elle va formater ses auteurs, fabriquer des auteurs, donc comme je disais, des espèces d'auteurs multimédia, qui en fait utilisent souvent la littérature, en tout cas la publication de livres, pour accéder à une forme de notoriété, et dans mon livre j'en cite quelques-uns comme ça, et donc la littérature évidemment est mal en point. Donc voilà pour décrire la sur-télévision. La sur-télévision, c'est surtout une télé qui est dévouée dans sa grande part au divertissement. Les émissions culturelles donc sont de moins en moins fréquentes, de moins en moins elles sont souvent tardives. Et lorsqu'elles existent, eh bien, on a du mal bien souvent à faire la différence entre une réelle émission culturelle et une émission de divertissement. Et le divertissement s'est aussi arrogé le droit de promouvoir aujourd'hui les livres. Et c'est comme ça que, eh bien, il y a quelques émissions littéraires qui restent à la télévision française, mais les livres, et quels livres, hein, souvent des livres qui n'ont rien à voir avec la littérature, qui sont des souvenirs de stars ou des confessions d'anciens tolards. Ces livres, eh bien, sont promus dans des émissions de pur divertissement où on tourne souvent, d'ailleurs, la littérature en dérision. Et donc voilà, pour répondre en gros, hein, je ne peux pas m'attarder, bien entendu. Et pour votre question quant à la temporalité, c'est vrai que entre le temps de la sur-télévision, qui est un temps extrêmement rapide, qui est un temps d'image, vous savez, il y a un universitaire qui s'appelle Jean-Marc Vernier, qui a très bien dit que la télévision avait connu trois époques marquantes. Il y avait ce qu'il appelait l'image profondeur, qui était l'image donc lente, l'image des films, l'image des documentaires, une image profondeur qui essaie de comprendre le monde en profondeur. Et ensuite, on est passé à la néo-télévision à une image surface, c'est-à-dire qu'on s'est mis à glisser davantage sur les choses, le rythme s'est accéléré. Et aujourd'hui, le rythme le plus important majeur de la sur-télévision, c'est ce qu'il appelle l'image fragment. L'image fragment, c'est typiquement l'image des clips vidéo, inspirés donc des jeux vidéo, avec une image qui défile extrêmement vite, où on n'a pas le temps d'imprimer, l'image n'a pas le temps de s'imprimer sur la rétine, hein, de l'œil, que déjà elle a disparu, et c'est une sorte de frénésie, et qui est accentuée encore par le phénomène du zapping, hein, où on est devant son écran, à zapper, à changer de scène, de chaîne sans cesse, et donc, pour répondre à votre question, effectivement, le rythme d'abord de la littérature et ensuite de l'émission littéraire ne correspond plus du tout au rythme de la sur-télévision qui est devenu un rythme extrêmement rapide et très déconcertant pour beaucoup de gens. Oui, en effet, je partage tout à fait ton opinion. En effet, c'est vrai qu'on est arrivé à la télévision fragmentée du fait du zapping. Mais, de l'autre côté, j'ai une dernière question. Oui. On n'a pas trop de temps, je le sais, mais quand même, je voudrais te poser une dernière question. Parce que, d'un côté, on a la télévision fragmentée, c'est vrai. De l'autre côté, on est un peu voyeuriste quand on a les Big Brother, par exemple. Et donc, je voudrais savoir, si on regarde d'un côté la télévision fragmentée, les télédivertissements, les Big Brother, que c'est un peu voyeuriste, donc oui, le développement, développement de la télédivertissement, est-ce qu'il est imposé par Léo pour influencer le public, ou est-ce que c'est un besoin du public, et donc la télévision les suive? C'est ça que je voudrais savoir. Oui, alors effectivement c'est une bonne question, parce que c'est une question de fond, mais je dirais les deux. Je dirais les deux tout simplement. Elle est imposée par le haut, par les programmateurs eux-mêmes, hein, les patrons de chaîne, etc., parce que, eh bien, qui fait vivre la plupart des chaînes. Alors, on a vu en France, là, il y a une évolution récente dans la législation qui, donc, a supprimé la publicité après 20 heures sur le service public. Et à partir de 2011, toute publicité sera donc supprimée sur le service public, c'est-à-dire la télévision d'État va être alimentée par des subsides de l'État, l'argent de l'État, et par une redevance sans doute relevée. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que ça va permettre plus de risques, plus de choses culturelles, et il sera très intéressant de l'observer. Pour l'instant, évidemment, ça n'est pas tout à fait le cas encore. Et ce qu'on voit dans la question donc que vous me posez, rappelez-moi précisément, parce que je voudrais justement, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais précisément répondre à votre question. En effet, t'as déjà répondu suffisamment dans le sens qui est déjà dit que en effet, elle est imposée un peu par les hauts, mais c'est un ça, peu par le groupe public. Oui. Imposé par le haut, bien entendu, par les programmateurs eux-mêmes, parce que ils doivent drainer de l'audience, et ce qui draine le plus d'audience, c'est-à-dire le plus de recettes publicitaires, c'est évidemment le divertissement. Hein, c'est ce qui va... vous savez, quand on fait des sondages et qu'on demande aux gens ce qu'ils veulent regarder à la télévision en priorité, ils disent bien souvent des émissions culturelles, des documentaires, etc. Mais tout ça est une vaste hypocrisie, d'ailleurs, à la télévision eux-mêmes, ils le disent bien, ils en sont bien conscients. Les émissions qui font le plus d'audience régulièrement sur la télé française, mais aussi en Italie, en Belgique et ailleurs, hein, ce sont les émissions de divertissement de type talk show qui sont issues d'ailleurs d'un modèle unique américain qui a su s'imposer à l'Europe. Et donc c'est pour ça que je pense que les programmateurs eux-mêmes imposent ce type de télé-divertissement, mais que le public, ben, malgré tout, il prend ce qu'on lui offre. Mais c'est vrai que le public, d'après les mesures d'audience, se rue davantage sur des émissions de divertissement un peu faciles que sur les émissions culturelles. On le voit simplement à la mesure de l'audience. Oui, ça, après, c'est... il est évident, comme le disait le grand écrivain donc Pascal, il est évident que l'être humain a besoin de divertissement. Oui, un roi sans divertissement, disait-il, est un homme plein de misère. C'est-à-dire que si on n'a pas ce divertissement nécessaire au quotidien, eh bien, on sera confronté à l'idée même de notre destin, c'est-à-dire à la mort. Donc, on est condamné, hein, à plonger dans le divertissement pour vivre, tout simplement. Et donc, le divertissement est nécessaire, il est même indispensable. Ce que je regrette, moi, profondément, en observant donc la télévision à l'œuvre, c'est qu'aujourd'hui, il soit devenu monopolistique. Il détient maintenant, il est quasiment tyrannique. Et le divertissement s'arroge, comme je l'ai dit, donc la possibilité maintenant de parler de livres, de culture, etc. Mais le fait sur un ton qui est souvent très faible, avec en ne relevant pas le niveau, et surtout en imposant des choses faciles, et ce que j'appelle, moi, dans mon livre, une littérature d'assentiment, c'est-à-dire une littérature qui ne fait de mal à personne, et qui est une littérature... type collection Harlequin, comme on en a donc en France, et qui vide en fait la littérature de sa substance. D'accord, Patrick. Je te remercie beaucoup pour les livres qui t'ont écrits, l'écrivain sacrifié. Je vais rappeler au notre ascoltateur qui est Patrick Touré, a aussi écrit un livre que j'ai aimé beaucoup qui s'appelle Belle Perdue, mais ouais. Qui, sur mon livre, il a écrit avec sa propre main. Belle et perdue, donc je te remercie encore une fois. Et merci à vous surtout, merci beaucoup. Et bon, malheureusement le temps de la radio c'est toujours étroit, mais je crois qu'on a bien parlé ce soir. Oui, c'était très agréable, en tout cas vous m'avez laissé suffisamment de temps pour, j'espère que j'ai été assez clair. Absolument. Absolument oui. Voilà, pour expliquer, parce que c'est un sujet qui n'est pas, que j'ai vraiment travaillé en profondeur et j'espère avoir été assez clair et convaincant. Oui, c'est sûr, un grand merci. Voilà. À la prochaine. Merci. Une fois à vous et bon anniversaire. Ah, merci bien. Au revoir. Au revoir. Et au revoir, Patrick. Une fois à Bruxelles, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. Bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa, io come un gentiluomo e tu come mentre fuori dalla finestra. Stringimi forte, che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Ed eccoci nuovamente qui questa sera a Radio Alma Bruxellando. Spero che queste voci, le nostre, questa sera giungano a tutti voi con chiarezza e chiaramente, perché come avete potuto capire, forse intuire dai diversi fruscii, stiamo cercando di far funzionare al meglio tutti i nostri microfoni. Il vento di Bruxelles. Il vento di Bruxellando che soffia ancora. Allora, tra poco credo che daremo la parola ai nostri amici del jazz. Io volevo ringraziare ovviamente Patrick per la splendida intervista. In realtà era prevista già per qualche settimana fa, ma purtroppo ci fu un problema tecnico, credo forse già in gennaio. Il libro di Patrick infatti è recentissimo, edito il 19 gennaio, quindi insomma è proprio recente, quindi invito tutti voi a leggere Le prime sacrifie. George, ti vedo perplesso questa sera, cosa c'è? No, non sono perplesso, io volevo solo dire a tutti quanti che questa sera è il compleanno della nostra Mary di... Auguri! Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Sì. Allora abbiamo una piccola sorpresa per te. Oh, e la piccola sorpresa adesso te la leggiamo. I successi dei germani non si possono spiegare semplicemente con cause materiali. Esaminiamo il problema in profondità. Le nostre città si arrendono, i nostri soldati disertano, i nostri popoli non credono più in noi, perché anche noi non crediamo più in noi stessi. Romolo, dobbiamo raccogliere le forze, dobbiamo riaffermare la gloria di un tempo, la memoria di Cesare, Traiano, Costantino. Non c'è altra via. Se non crediamo in noi stessi, nella nostra missione, nella politica mondiale, siamo persi. Va bene. Crediamoci. Tu credi? Fermamente. Nella gloria di un tempo? Nella gloria di un tempo. Nella nostra missione storica? Nella nostra missione storica. E tu? Imperatrice Giulia? Ti ho sempre creduto. È un sentimento fantastico, vero? Mi sembra di sentire il vento benefico della credenza che si diffonde nelle stanze. Era ora, comunque. E adesso? Che vuoi dire? Dunque, adesso crediamo. Certo, è la cosa più importante. E adesso che cosa succederà? Non è importante. Non basta mica solo l'atteggiamento. Forse dovremmo fare qualcosa. Verrà da sé. Adesso dobbiamo soltanto inventare un ideale che possiamo contrapporre allo slogan dei germani. Per la libertà e per la servitù della gleba. Io suggerirei per Dio e per la schiavitù. Non so se Dio sta dalla nostra parte. Le nostre notizie a riguardo sono assai incerte. Beh, allora, per la giustizia, contro la dittatura. Non va bene. Proporrei invece un motto pratico e fattibile. Con l'avicoltura per l'agricoltura! Romolo! Ecco, questo era offerto da Romolo il Grande di Durand per la nostra Mary D. Beh, ovviamente vi ringrazio, questa è una piacevolissima sorpresa, nonché con matrice storica, quindi doppiamente apprezzata. Vi ringrazio di cuore, come vedrete questo mio 30° compleanno è un po' bagnato, quindi sono lievemente, sono leggermente raffreddata, quindi scusatemi, spero, come dicevo prima, che la voce sia chiara. Quindi ora voglio lasciare la parola immediatamente a Stefano e Paolo, che ringrazio ovviamente della precisione e della puntualità con la quale poi ovviamente stanno animando anche queste nostre serate, e poi ritorneremo all'angolo del libro e ai tanti eventi dell'agenda culturale. Ed ecco un cambio al volo che si annuncia. Ah, è cambiata la musica. Buonasera. Buonasera a tutti e buon compleanno alla nostra Mary D e a tutti quelli che compiono gli anni oggi. Una serata compleannifera, vi faremo ballare molto scatenati. Stefano è stato oggi, un grande. Oggi dimentichiamo il jazz perché dobbiamo celebrare dovutamente il trentesimo genetriaco. Poi non diciamo neanche quanti sono, dai. Comunque celebriamo tutti i compleanni, soprattutto quello di Mary Lee, con un sacco di musica divertente e molto, come dire, peperina, che Stefano ha scovato negli antri della sua collezione. Però visto che sono tutti pezzi famosi, eccetto uno, il primo è famoso, non ve lo annunciamo, immediatamente entriamo nello spirito di compleanno e anche di danzereccio. Pazzesco, già in questa radio gente che si dimena. Stefano, rivestiti per favore. Dobbiamo celebrare, allora abbiamo cominciato subito a dire buon compleanno insieme a Stevie Wonder. Sì, un pezzo dell'80, Happy Birthday. Mary Dee aveva un anno e già si dimenava al suono di questa musica. E noi abbiamo cercato anche di riscaldare, perché il titolo del disco da cui questo è tratto era Hotter Than July. Non possiamo dire che è proprio così adesso. No, adesso di sicuro, anche se il luglio di Bruxelles effettivamente è freddo e forse adesso è più caldo di diciamo quello. Che il luglio di Bruxelles è come il marzo infatti, in italiano, è dai. È tutto uguale. Bene, adesso continuiamo col nostro compleanno. Questo è un pezzo un po' più particolare. Allora, un po' legato alla nostra puntata sui fumetti. Sì, perché torniamo con un fumetto animato, un cartone animato che ci piace molto, che sono i Simpson, e il personaggio più musicale dei Simpson senza dubbio è Lisa, la sassofonista. Esattamente, in questo caso c'è una canzone dedicata a Lisa ed è cantata da una voce che riconoscerete. È anche simpatico naturalmente la situazione in cui tutto questo succede, ma ve lo raccontiamo dopo. Il pezzo è molto breve e anche qui auguriamo in un altro modo un buon compleanno. 6 a.m. That's right, hope you like your present. And a 1, and a 2, and a 1, 2, 3, 4. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. I wish you love and goodwill. I wish you peace and joy. I wish you better than your heart desires. And your first kiss from a boy. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. una scena divertente nel cartone, perché c'è un energumeno, un armadio di uomo peloso e dall'aria molto rozza che apre la bocca e inizia a cantare con la voce, l'avete riconosciuta, di Michael Jackson. Sì, in realtà è qualcuno che appunto si sente come Michael Jackson in un posto di pazzi, quindi sì, come spesso, lo spirito dei Simpsons. Come spesso nei Simpsons. Poi in realtà, l'hai visto Stefano, Michael Jackson ha fatto una conferenza stampa settimana scorsa a Londra, mi sembra, in cui appariva quasi sano da un punto di vista fisico-motorio, aveva i suoi mitici... Non era lui. Forse hanno trovato un buon sosia, speriamo che sia lui in realtà, perché abbiamo interesse a risentirlo. Devo dire, io negli anni ruggenti Michael Jackson lo trovavo un musicista interessante, poi era un talento fenomenale della danza, si è rovinato. Magari un giorno facciamo sentire qualcosa con i Jackson 5, quando era proprio giovane. I mitici Jackson 5, sì. Bene, adesso passiamo, passiamo. Feste di compleanno, cosa si fa di feste di compleanno? Ma ci si infila negli angoli con le ragazzette, ci si imbuca, ma soprattutto si balla. Si balla. Con i ragazzotti. Allora, secondo me ci sono almeno due canzoni. Ci sono almeno due canzoni che non mancano mai in qualsiasi festa di compleanno, e quindi noi non volevamo farla mancare. Una è Buon Natale, no, qual è? No, una è sicuramente di carattere, diciamo, brasiliano, no? Perché c'è sempre l'angolo brasiliano nelle feste. Ma tu a che compleanno vai, dove ci stanno le brasiliane? No, questo vale per tutti. Allora, qui abbiamo preso un pezzo classico, però rifatto moderno, sì. Bruno Mendes, Maschenada, sì. Fatto... Ma fatto con i Black Eyed Peas, sentirete che cosa fanno sotto. Pezzo che fatto di. Ma che è Maschenada, che è quello che si diceva di solito quando hai trovato qualcuno, ma insomma non era tanto carina. Beh, Maschenada. Ma questo significa, però si diceva, è vero. Vabbè, adesso pronti a ballare e noi qui chiaramente ci scateneremo un altro po'. Rivestitevi. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes y'all. You know we never stop, we never rest y'all. The black of music keep the funky fresh y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Ecco, basta col trenino, questa è la musica che utilizziamo sempre per il trenino nelle feste, quindi ci voleva. Poi c'è un segreto in questo pezzo, possiamo dirlo, quella voce un po' profonda che si sente sotto è Stefano, c'è una partecipazione straordinaria, lo sapete, sì, che mi Stefano hanno invitato e lui non si è tirato indietro. Ma Stefano do Brasil. O Brasil, è lui. Questa grande canzone di George Ben, ma portata più al successo da Bruno Mendes che abbiamo sentito qui che non da George Ben. Per non parlare di Ronaldo e degli spot di una certa casa di abbigliamento sportivo. Bene, vi avevo promesso un altro pezzo, almeno da ascoltare rapidamente, per continuare a ballare, che è uno standard delle feste. E poi è un pezzo dell'anno in cui è nata la nostra compleannata, che si sta trasformando. E poi un pezzo che si intitola We Are Family. We Are Family, e ma perché noi siamo una famiglia, come un po' il nostro gruppo alla di radio. Ma siamo tutti assieme, ma questo a spaccarmi i ci vuole tutto. No, va bene, ma questo è funky. Questo è un po' di tutto. Disco funky, ma family, adesso We Are Family. Sister Sledge, che erano Kim, Debbie, Johnny e Kathy Sledge. Grandi qualche. Successi degli anni 70-80. Avere quattro sorelle così, poi che ce fai? Che cantano tutto il tempo, non stanno mai zitte. Ma che voci, eh. Comunque, abbiamo ballato abbastanza stasera. Bravi, puntata sui generis, ma meritata per ben celebrare questo compleanno. I compleanni, e allora facendovi un augurio di buon compleanno e buona serata e buona musica, vi dico che c'è un concerto domani, non malaccio, anzi giovedì, non malaccio, a L'Ancien Belgique, Franz Ferdinand, per chi ama dimenarsi, sono bravi sti ragazzi inglesi, andatevi a sentire, dicono che è sold out, ma qualche biglietto magari lo trovate all'entrata. Beh, non mancate, la musica dal vivo è sempre stupenda. Alle 20, benissimo. Giovedì. Allora, buon ascolto per quelli che andranno e poi a risentirci molto presto. Ciao a tutti. Buona serata. Buona serata, Librangolo. Librangolo. Beh, dobbiamo lavorare su questa sigla, veramente. La diva l'improvvisazione. Vabbè, bisogna dobbiamo lavorare. Ecco, comunque una parte del Librangolo l'avete già sentita, siccome l'ho impostata sul regalo, cioè dato che abbiamo un compleanno e sicuramente abbiamo tantissimi compleanni, allora fondamentalmente ho portato dei regalini, diciamo, siccome secondo me i libri ci danno tantissimi regali, leggere è come vivere tante volte, almeno tante quante le storie che ci coinvolgono e sono come guardare la vista da tantissime cime di montagna, paesaggi diversi ma sempre umani, spesso bellissimi ma spesso anche sofferti. Ho scelto un paio di regali piccoli, divertenti, infatti il primo l'avete già sentito, e li ho scelti dicendo anche insieme a Jane Austen, che diceva sui romanzi che erano solo un'opera in cui i più grandi poteri della mente vengono esercitati, in cui la più profonda conoscenza della natura umana, la più felice delineazione della sua varietà, le più vivaci effusioni di arguzia e umorismo sono trasmesse al mondo nel miglior linguaggio possibile. Ed ecco, dopo Duremat, passiamo a un altro brano, abbastanza buffo, ma speriamo che apprezzate anche voi, che è dal libro fantastico di Douglas Adams, che il titolo italiano ancora non l'abbiamo imparata, Guida degli autostoppisti alla galassia, o Grida galattica per gli autostoppisti, qualcosa di genere. Comunque. Guida per autostoppisti della galassia. Grazie. Bravo, yeah. George, cioè, bravo. Ecco, cioè, qui siamo in una situazione in cui nello spazio si materializzano una balena e un coso di petunia, un vaso di petunia. E qui di seguito riportiamo i pensieri della balena dal momento in cui la sua vita cominciò fino al momento in cui finì. Ah, cosa succede? Scusate, chi sono? Perché sono qui? Qual è lo scopo della mia vita? Cosa intendo dire con chi sono? Calmati ora, controllati. Oh, questa è una sensazione interessante. Cos'è? È una specie di formicolio nel... Beh, immagino sia meglio dare dei nomi alle cose se voglio fare progressi in quello che chiamerò mondo. Allora dirò che il formicolio è nello stomaco. Bene. Oh, si sta facendo molto forte. E cos'è questo fischio che mi passa accanto, quella che chiamerò subito testa? Lo chiamerò vento, che sia un nome adatto, ma sì, per il momento può andare, poi gli troverò un nome migliore quando capirò a cosa serve. Deve essere molto importante questo vento, perché mi pare che ce ne sia un casino qua. E cos'è questa? Questa la chiamerò coda, sì, coda, e la posso agitare in qua e là. Wow, che bello, non mi pare che si ottenga granché agitandola, ma scoprirò poi che cosa serve. Dunque, a questo punto sono riuscita a farmi una rappresentazione coerente delle cose, no? No, non importa, in fondo è eccitante dover scoprire tante cose, non vedo l'ora di scoprire altre cose, sono stordita dalla voglia di scoprire. O dal vento? C'è davvero moltissimo di vento, vero? E wow, cos'è quella cosa che mi viene incontro a tutta velocità? È così grande, uniforme, rotondeggiante... Che ha bisogno di un bel nome, suonante come terra. Sì, che bel nome, terra. E il resto, dopo una botta tremenda, fu silenzio. Curiosamente, l'unica cosa che pensò il vaso di petunie cadendo fu... Oh no, non un'altra volta. Molte persone hanno considerato che se noi sapessimo esattamente perché il vaso di Petunia pensò così, sapremmo molte più cose sulla natura dell'universo di quante non ne sappiamo attualmente. Ecco, storiella finita. Beh, per... E anche l'angolo del libro? Scusa? E anche l'angolo del libro finisce qui? Beh, più o meno, cioè, oh, volevo ancora dirvi che se non vi siete divertiti per caso con l'angolo del libro stasera, posso solo dire che De Gustibus non est disputandum. Assolutamente. E ribadire con un'altra citazione, stavolta di Paolo Coelho, che è bello che non siamo uguali. È grave sforzarsi di essere uguali. Provoca nevrosi, psicosi, paranoie. È grave voler essere uguali, perché questo significa forzare la natura, significa andare contro le leggi di Dio, che in tutti i boschi e le foreste del mondo non ha creato una sola foglia identica ad un'altra. Ma tu ritieni che essere diverso sia una follia e perciò hai scelto di vivere nell'istituto, perché qui, visto che sono tutti diversi, diventi uguale agli altri. Ah. E qua finisce l'angolo del libro. Bravissima, bravissima Fiordaliso, ti ringrazio davvero di aver pensato a questi regalini che accetto veramente con somma gioia. Stasera in realtà è anche un po' un'emozione per me essere in radio proprio nell'occasione del mio compleanno. È un po' anche un complice questo raffreddore, insomma non sento di essere propriamente al top, però ringrazio ovviamente tutti voi, ringrazio Stefano, Paolo e Giorgio Fiordaliso di aver pensato e ritagliato questo piccolo angolo sul compleanno. Ritornando alla nostra agenda, volevo sottolineare l'intervento che domani sera Roberto Benigni farà al Palazzo delle Belle Arti, infatti leggerà Dante e a quanto pare i biglietti sono tutti esauriti. Dalle 20 fino alle 9.30 Roberto Benigni dedicherà quindi questo suo spazio e pensate in tournée mondiale, questa è la sua unica tappa in Belgio e noi di Bruxellando parteciperemo e quindi potremo sicuramente poi riparlarne. Speravamo di potervi fare una sorpresa con Roberto Benigni, ma da quello che ci dice il suo agente Roberto non gradisce rilasciare nessuna intervista. Noi comunque ovviamente lo ringraziamo, lo salutiamo e siamo veramente ansiosi di ascoltarlo, nonché vederlo domani sera, ripeto, al Bosar alle ore 20. Ecco, io volevo dare un'altra notizia, che oggi all'Ecofin finalmente c'è stato un accordo sulle aliquote ridotte dell'IVA. Non so se può interessare. Su che cosa? Quale IVA hanno ridotto? Giorgio. Quale aliquota hanno ridotto? Giorgio, questa è stata un'interferenza, vero? Vabbè, come non detto, allora se non mi interessa niente di aliquote ridotte, allora vi parlo di altro, vi parlo di Così fan tutte, opera di Wolfgang Amadeus Mozart, che dal 15 marzo al 9 aprile sarà all'Opera di Anversa, www.vlaamseopera.be, oppure alla serata di letteratura il 17 marzo, quindi siamo abbondantemente in tempo, alle ore 20 al Palais des Beaux-Arts, e poi l'Idealista Magico, sabato 28 marzo alle ore 20.30, sempre al Palais des Beaux-Arts, ma alla Sala M, è il teatro clandestino di Marco Irassivaro con Andrea Mochi, Sismondi e Laura Pizzirani. E infine una cosa carina, che è i racconti di giugno, giovedì 2 aprile 2009, lo diciamo con un grande anticipo, sempre alle 8:30, sempre al Palais des Beaux-Arts, la compagnia Pippo Del Bono, appunto, presenta i racconti di giugno. Una interessante rappresentazione che secondo me vale la pena andare ad ascoltare. Ciao Giorgio, io invece lo dico adesso perché poi dopo i biglietti non si troveranno, il 25 maggio il concerto di Laura Pausini al Foret National, lo dico oggi perché... Bisogna dirlo in anticipo, se guardate tutti i concerti dei big sono già tutti esauriti, Madonna che verrà in luglio ha già venduto tutti i biglietti in due giorni, per cui Laura Pausini non è a livello di Madonna, ma comunque credo che essendo l'unica tappa che farà in Belgio, molti italiani andranno, quindi detto oggi sulle onde di Radio Alma 101.9, così i nostri ascoltatori si potranno preparare a acquistare il biglietto. Invece un altro spettacolo che io mi auguro di poter vedere prossimamente è Fate l'amore con un belga. E pensate, penso che abbiate visto la locandina un po' dappertutto a Bruxelles, insomma deve essere molto carino e avrà luogo ad Anderlecht dalle ore 20 tutti i giorni e ancora per due settimane. Maridì, dimmi. Ma è la copertina quella con le fritte? Eh sì, quella col cornetto di fritte. Insomma, credo che valga la pena vedere. Invece un'altra mostra tipicamente belga che è già iniziata da qualche settimana, che avrà luogo fino alla fine del mese di maggio, il 31 maggio invece, è un'esposizione che ricorda un po' quelle che sono le abitudini maschili e femminili dei belgi. Ne hanno parlato molto bene, quindi insomma vi consigliamo di andare a vederla. Invece tra i film, uno dei film che ha ovviamente raccolto tanti plausi è Il Lettore, in francese diventa Le Liseur, The Reader in inglese, in italiano credo l'abbiamo tradotto come Il Lettore a voce alta, che è una... Io non l'ho visto in italiano. Io pure l'ho visto qui in Belgio, quindi insomma non l'ho visto in italiano, però mi sembra di aver intuito che il titolo in italiano diventa Il Lettore a voce alta, ed è veramente, vale la pena vederlo, perché offre uno spaccato su quella che è la realtà postuma al periodo nazista in Germania. Ci sono spunti e suggerimenti molto validi, sia per quanti amano la psicologia, sia per quanti amano la storia e quel periodo storico in particolare. Non si possono svelare tanti dettagli, perché in sé è un film basato su piccoli dettagli che poi si riveleranno mano a mano a quanti desiderano vederlo, però di sicuro degli ultimi rispetto insomma ai film visti finora, questo è uno dei film che vale davvero la pena di visitare. Vi farà riflettere sull'amore, sulla guerra, su quelle che poi possono essere le conseguenze, a se ne fasse aggiungerei, degli ismi e di un periodo storico che abbiamo vissuto in tanti paesi europei e che speriamo non debba ovviamente riverificarsi nel futuro. Beh, magari possiamo aggiungere che il film comincia nel 58, anche se ci sono dei fatti antecedenti che però sì, saranno scoperti dopo. Il film comincia nel 58 e finisce circa negli anni 70. Negli anni 70 con la storia e poi la parte finale del film che si accompagna fino agli anni 90 e quindi insomma a tempi abbastanza recenti e moderni. Comunque se avete l'occasione, ripeto, The Reader, vale la pena veramente di farci un giro. Il tempo tirannosauro è? Giusto? Tyrannosaurus Rex. Tyrannosauro, Rex, non Re. Ok, scusa. Allora, volevo dire che il 20 marzo, questa è una cosa personale perché è anche un amico, Paolo Gaio, che è il mio amico, e Giacomo Lariccia, presentano il loro set recital, che è un omaggio a Fabrizio De André, e il recital, il titolo è Dai Diamanti Non Nasce Niente, dal titolo di una canzone di Fabrizio De André. Il loro omaggio a Fabrizio De André avrà luogo al Teatro dell'Istituto Italiano di Cultura, che conoscete bene, a Rue de Livourno 38, in occasione dei 10 anni dal comparso di Fabrizio De André. Quindi venerdì 20 marzo, segnatevelo adesso sull'agenda, la settimana prossima, ore 20. Grazie. Bene, con questo ultimo evento noi salutiamo tutti quelli che sono i nostri ascoltatori e ovviamente l'occasione ci è gradita per augurarvi una splendida settimana, speriamo con un po' di sole, così che insomma questi raffreddori, malesseri, passeggeri siano soltanto un ricordo attuale, e ci vediamo la settimana prossima con una puntata davvero ricca di ospiti. Avremo un ospite al telefono, un ospite in studio e speriamo di poter celebrare degnamente la primavera. Hai detto passeggero per caso? Passeggero? Forse sì. Hai pagato l'IVA? L'IVA? George sei un malato. Sai che George potremmo anche dedicare uno speciale all'IVA. Ma George, ma tu intendevi parlare di IVA Zanicchi? Esattamente. Pagato IVA? No, allora no, non l'ho proprio pagata, guarda. Né ho mai ascoltato la sua canzone ancora, quindi non posso nemmeno esprimermi nel dettaglio. Ti voglio senza amore, ti voglio, mi ridicato compleanno, ti voglio, ciao a tutti! A martedì! Buonasera! Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.